l'alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Quarta puntata. Inciampato nel gradino della casa di Drusa, per poco non caddi. «Aspetta», disse, «ora accendo la lucerna». E intanto spalancò la porta, sicché entrò la luce di una luna bionda. Seguivo con gli occhi i movimenti della donna che si tolse lo scialle nero, si accostò al tavolo entrando nel raggio della luna. Vidi il collo bianco su cui si levava la bella testa e tutto il corpo snello come un giunco della Limini, di quelli che si piegano al vento e su cui danzano le libellule. Accesa la lucerna, prese dallo stipo il bottiglione del vino e un bicchiere che riempì. «Bevi», disse. Il vino scivolò d'un fiato nello stomaco, senza che la bocca nemmeno lo sentisse. Lei ne versò un secondo, che bevi più lentamente. «Siedi», disse. «Le cose vanno male», io esclamai. «Come? Ma non avete vinto oggi? L'arcivescovo ha fatto cantare il Te Deum». «Vanno male lo stesso. Potremmo resistere per poco e Don Alfonso non viene». Lei mi fissò piena di meraviglia. «Come sai che non viene?» «L'ha detto stanotte un forestiero, un cristiano rinnegato che portava notizie di fuori». «Sono notizie di nemico», lei disse. «Possono essere sbagliate». Io mi irritai. «Non si capisce più niente. I primi giorni tutto pareva chiaro da capire, ma ora è come quando vengono quei nuvoloni scuri in cielo carichi di malanni e non si sa cosa porteranno e non si può far niente per saperlo. Si sta lì, fermi, a guardare in su». «Forse in guerra è così», lei rispose. Io continuai sconvolto. «Ora siamo tutti infelici. Di chi la colpa? Forse bisognava pensarci prima alle nostre cose, nei tempi in cui stavamo bene e non c'erano questi accidenti di palle tonde che cascano dal cielo». «Pensarci come?» «Forse bisognava conoscere la vita. Forse le cose hanno un corso, ma potrebbero anche averne un altro. Sai cos'è? Noi siamo ignoranti. Noi non conosciamo la natura vera delle cose e così non capiamo niente. Viviamo come le formiche, passa uno sopra col piede e ci schiaccia». «Ma quello che abbiamo fatto è giusto», disse Idrusa. «E allora perché ci va male?» Tacemmo tutti e due qualche momento. «Neanche Dio lo capisco più», io dissi. «Adesso, per esempio, se volesse aiutarci, potrebbe fare un miracolo». «Un miracolo? Beh, che gli costa? E allora quando li fa?» «Sai una cosa, Cola», disse. «Tu adesso hai bisogno di dormire», soggiunse. «Non dormite mai lassù. Se vuoi ti lascio qua e fai una dormita». «No, no», dissi. «Non è questione di sonno. È questo non capire, accidenti». «Allora bevi un altro bicchiere, il vino dà forza». Fu curioso l'effetto di quel terzo bicchiere. Prima un calore nello stomaco, poi una stravagante emozione. «È vino vecchio», dissi. Mi sentii a poco leggero, alato. Il pensiero cominciò a saltellare da una cosa all'altra. Si fermò a tanti anni addietro, quando io ero un ragazzo e Idrusa portava le treccine. «Mi viene alla mente», dissi, «quando giocavamo a chi colpiva più da lontano il sughero delle reti con una pietra, ti ricordi? Eri bizzarra tu. Se uscivi sconfitta diventavi furiosa». Lei sorrise, stemmo un poco zitti. «Sai, Idrusa», dissi, «io ho sempre pensato che tu avessi una spina ficcata in qualche parte e che per quella spina mai tolta ti fosse venuta una vita diversa dalle altre donne». «Forse», lei disse appena. Il vino mi dava una maledetta voglia di parlare. Continuai. «Sai, Idrusa, io ti sono sempre stato amico e ti ho anche difeso quando le donne sparlavano di te. Ma tutto quello che capivo in te non mi piaceva. Dovevo esserti amico per quello che non capivo». «Adesso è tutto lontano», lei disse. «Accidenti a quel vino, non potevo proprio tacere», dissi. «Ma tu, Idrusa, volevi bene Antonio?» «Sì», lei disse appena, e subito cambiò discorso. «Non ce la facevo più a stare nella cattedrale stanotte fra le donne che sospiravano, i piccini che piangevano nel sonno. Oggi l'arcivescovo ha fatto una lunga predica. Ha detto che mentre gli uomini combattevano con le armi sulle mura, noi dovevamo combattere con la preghiera nella casa del Signore. E lui aveva ragione, ma io non ce la facevo a pregare. Pensavo a me, alla mia vita, che mi pareva straordinariamente lunga, anche se era passata così in fretta. Si alzò, aggiustò lo stoppino della lucerna che cominciava a mandare luce violetta e fece un atto come se volesse ridere. Disse: «Ne vuoi un altro bicchiere? Dammelo. Poi basta, se no ti sbronzi». L'ora della notte era tutta silenziosa, allo stesso modo come non ci fossero né galee, né assedio, né turchi, ma solo noi due, pieni di una quantità di pensieri stravaganti. Quando i miei occhi caddero sul petto di Idrusa, che sfuggiva tondo e fiero ai lacci della veste e prendeva rilievo su quel corpo lungo e snello, stretto nella tela nera, tanti piccoli serpi mi passarono sulla spina dorsale. Il mio cervello, per quanto disordinato, fece questo pensiero: «Sta attento, Colangelo, questo non va per niente, non fare il porco, Colangelo». Idrusa s'era seduta di nuovo e non faceva caso a me, seguiva i suoi pensieri. Dio, quant'era bella! E aveva anche ingegno. Ecco, per esempio, quale altra delle nostre donne avrebbe capito che io avevo bisogno di un bicchiere di vino quella notte? Avrei voluto dirle una buona parola, ma mi sentivo impacciato e con la testa in disordine. Poi devo dire che era troppo bella e questo mi confondeva sempre più. «Perché non me ne vado adesso?» pensai. E invece rimasi lì. La lampada mandava una luce fioca che a momenti cresceva illuminando la faccia bianca, la massa dei capelli neri, gli occhi dolci di Idrusa contrastanti con la corporatura fiera, e subito calava. Chiamata dal mio sguardo fisso, Idrusa si scosse. Mi guardò a sua volta, meravigliata. Si alzò in piedi, anch'io mi alzai e mi accostai a lei. Avevo smesso del tutto di ragionare. «Ora torna sulle mura», disse con voce persuasiva, come parlasse a un piccino. Ma in quell'attimo, standole presso, io mi sentii venire la febbre. Il sangue mi batteva violento alla nuca, tremavo. Il tavolo, lo stipo, il bottiglione si facevano piccoli, lontani, scomparivano. Solo il corpo bianco di Idrusa, stretto nella veste a un palmo dal mio, riempiva la stanza, ondeggiando lentamente. «Va, Colangelo», lei disse, e pareva triste, nauseata. Di scatto, male alla vita mia, la strinsi fra le braccia con tanto furore che lei mandò un piccolo grido. Le scopersi le ascelle, il petto, la morsicai mentre la bocca mi tremava sulla sua carne bianca. Spintala nell'altra stanza, la rovesciai sul letto e sentii che s'abbandonava, paziente, senza voglia e senza piacere. Io la stringevo, ma lei era lontana e questo mi infuriava. Mi buttai sul suo corpo, nemmeno la vedevo nel buio della seconda stanza. Sentivo la pelle calda, morbida e volevo succhiarle la vita. Poi presi ad accarezzarla, piano piano, a toccarle i seni, a camminare con il palmo della mano per tutto il corpo che stava sempre immobile, finché un'improvvisa disperazione mi staccò. «Sono un porco!» gridai. E urtando nella porta, poi contro lo spigolo del tavolo, infilai l'uscio spalancato, presi a correre, ridiscesi di corsa tutto il vicolo del crismatico, fui al largo della piazzella dove mi fermai ansimante con le spalle al muro del palazzo de Rao. Cercavo di respirare mentre il cuore mi batteva impazzito. Passarono due uomini, un napoletano e il vecchio Primaldo del Borgo San Giovanni, cimatore di panni. «Quello si sente male», disse Primaldo. «Non vedi che ha bevuto?» disse l'altro. «Bevuto? Mi fa meraviglia, non è uno che beve». Si accostarono e mi guardarono. «Colangelo», disse Primaldo, «che fai qua?» «Io? Niente. E stai bene?» «Sì», dissi. Mi guardarono perplessi. «Ma tu non dovevi essere sulle mura?» domandò Primaldo. no, sono qui. E come mai? Non so, sospirai. Vedi che ha bevuto, disse il napoletano. Colà, ti serve qualche cosa? Vuoi venire con noi? Domandò Primaldo. No, no, dissi. Allora, buona sorte, rispose Primaldo. Buona sorte, dissi. I due, dopo avermi guardato ancora una volta, proseguirono in silenzio per la loro via. Tornò la piazza vuota e io fermo presso il muro. Non provavo nessun dolore. Stavo come se non mi ricordassi più di me. Passò del tempo e, nauseato di guardare la piazza, alzai la faccia verso il cielo. Erano i primi d'agosto, tempo di grandi mosse nel cielo. Vidi cadere una stella. È caduta una stella, pensai. La piazza era chiara al lume della luna. Le bombarde non l'hanno toccata, pensai. Mai l'avevo vista in vita mia così vuota, così zitta ad ogni portale di palazzo. Ripresi a camminare, lasciando che le gambe si scegliessero da sole la strada. Un passo dopo l'altro mi trovai sulla via dei conventi e di nuovo nel vicolo del crismatico. Finalmente spuntò la mia casa. Era in piedi e senza una scalfittura. Lo spigolo della casa di rimpetto di Massaro Elio metteva sul bianco della luna un triangolo d'ombra fra la mia porta e la finestra di sinistra, sulla quale ancora s'affacciava un vaso di basilico, reggendo l'odore delle foglie, che era odore di ragù, di pesce a salsa. Apersi piano la porta e subito quel diavolo di una luna, quella luna lontana e sperduta nei cieli, toccò sul muro il grembiule dell'Assunta appeso a un chiodo. Tremai a vederlo. Attraversata la cucina, persi la porta verso il cortiletto. Sulla cisterna, ombreggiata dalla pergola, era rimasto il secchio di rame con cui Assunta prendeva l'acqua. Mi sedetti sul lastricato del cortile e mi presi la testa fra le mani. Io non ero più di un pescatore. Non sapevo giudicare questioni che non fossero di navigazione e di reti. Sapevo bene quante ore della notte richiedeva un pesce per entrare nella chiusura. Era troppo grande per me quello che succedeva. E m'ero fatto stravagante. Mai prima della venuta dei turchi, prima di quel momento in cui sedetti sul lastricato del cortile, mai mi era venuto in mente che, per quanto avessi sudato a farmi uomo, avessi imparato a pescare, a bestemmiare, a fare l'amore, io ero la stessa cosa di mia madre. Avevamo la stessa anima che nella sventura prendeva fuoco. Non erano per niente memorie ordinate. Erano cose e figure che venivano incontro come monete messe tanti anni avanti a capitale e scoperte all'insaputa nel fondo d'un cassetto. Vedevo lunghe file di zucche gialle in cima ai muri della masseria di San Damiano alla via della Limini. Nel cortile della masseria, pieno di fichi distesi sui graticci a seccare, c'era sempre un tacchino che faceva la ruota stizzosa quando io ragazzo scendevo a piedi nudi per il sentiero che veniva dal bosco. Ogni vespro, tagliati i rami più bassi dei pini, li legavo a fascina per metterli sulle spalle e portarli alla masseria. I pini, al mio passaggio, buttavano giù qualche pigna che cadeva con un piccolo tonfo sull'erba. Al fatto io c'ero abituato, anche se non ero mai riuscito a sapere se fossero proprio i pini a buttare giù le pigne o gli spiriti del bosco che si fanno beffe degli uomini e al loro passaggio dice che si cambiano in raggi di sole. Al calare della sera il sole scompariva dal bosco, se ne andava in pochi minuti, il che accadeva tutte le sere, e sempre in sul fatto una quantità di grilli pronta e sollecita scoppiava a cantare. Fu in quel bosco che vidi per la prima volta Assunta in forma di una piccina magra e pallidetta, che poi crebbe tanto ben fatta della persona da dare l'idea che Dio, nel crearla, avesse pensato all'amore. Era bruna e di bel pelo. In verità mi pare di averla cresciuta coi miei occhi. In quel tempo lei coglieva capperi nel bosco, io pascolavo le capre, ma mi curavo poco delle bestie. Mi scaldavo a cercare capperi per lei e, preso da una sorta di esaltazione, continuavo a parlare, a raccontarle le mie cose. «E le capre?» diceva un tratto Assunta quando, alzando la testa da un cespuglio, non le vedeva più. «Ma santa Madonna!» io mi irritavo. «Di quanta erba hanno bisogno? Sono sfondate!» e correvo a cercarle. Dio aveva dato ad Assunta natura riservata, tranquilla e modesta come a un fiore di campagna. Al vespro, baciata la sua bocca fresca e selvatica, la seguivo con l'occhio finché scompariva alla svolta del sentiero. La masseria di Assunta era a nord della nostra, 200 passi. Arrivato a casa mungevo le capre. Passò un anno e cominciò a prendermi il nervoso. Quando mungevo le capre, scalpitavano e belavano, cercavano di scappare, tanto stringevo le mamme per far scendere presto il latte. Se arrivavo prima al bosco, mi sedevo su un sasso e nella mia mente alzavo le vesti di Assunta fino a metterla nuda. Poi mi rotolavo sull'erba. Le capre, meravigliate, smettevano di strappare a piccoli morsi le foglie dei cespugli e si voltavano a guardarmi, immobili, con le orecchie tese. Quando arrivava Assunta, avevo vergogna di avvicinarmi a lei. La notte, poi, uno sconquasso, tanto che al mattino mi metteva nausea la frisella d'orzo con origano e pomodoro che mi aveva preparato la madre. «Perché non mangi?» diceva lei. «Non ho voglia. E com'è questo fatto?» «Che so, t'è passata la fame?» «Si vede. E tu mangia lo stesso. A 18 anni uno ha da mangiare, ha da farsi ancora bene le ossa.» «Mi dà noia mangiare.» «Come sarebbe a dire? Allora sei malato.» «No, non sono malato.» «Allora mangia.» «Va bene.» Prendevo la frisella, uscivo in cortile e senza farmi vedere la davo alle capre, che se la masticavano frettolose con la testa in su, piegandola di traverso, tanto provavano piacere. Qualche volta in quei giorni non ce la facevo ad andare al bosco. Dicevo a mia madre: «Scendo a mare.» Facevo tutti i preparativi vicino all'acqua per prendere alla caloma le aguglie. Legate coi fili di seta e di coda di cavallo le crociere di canna, mettevo sopra ognuna la piccola vela e sotto l'amo. Poi stendevo le palamare all'acqua profonda e aspettavo su uno scoglio. Ma non c'era scoglio su cui potessi sedere tranquillo. Vedevo lei dappertutto. Il giorno dopo tornavo al bosco. Era là che coglieva finocchi selvatici o cercava i capperi nascosti sotto le foglie grasse. «Non sei venuto ieri?» Nell'atto era dolce e tranquilla come sempre. «No», dicevo duro e contegnoso. «Arriviamo fino alla Torre Saracena?» «Arriviamo», rispondevo appena, e si cominciava a camminare uno appresso all'altro sulla mulattiera. Io non trovavo niente da dire e mi pareva di essere molto infelice. Una cosa nuova, misteriosa, mi toglieva la voglia di vivere, come se covassi una malattia. Arrivati si guardava il precipizio e sotto l'acqua verdissima. «Quanti ricci!» lei disse una volta. «Ora scendo e te ne prendo due.» «Sei pazzo, qua si muore a scendere!» mi fermò attaccandosi a me con tutte e due le braccia, tanto che io sentii un tuffo nel sangue mentre il cuore prese a battere forsennato. Dissi appena: «Dammi un bacio.» Lei sporse in avanti il suo faccino bianco, la strinsi a me e la baciai con foga sulla bocca, sulle guance, sul collo. Le misi le mani nei capelli e glieli scompigliai tutti. Rise felice. Venne un giorno che alla svolta del sentiero della Palascia la strinsi tanto fra le braccia da toglierle il respiro. Alzò gli occhi verso di me e per la prima volta mi guardò in modo diverso, come se avesse capito. Restammo qualche minuto così, stretti, con gli occhi negli occhi. Poi io la presi in braccio, la distesi sull'erba e mi coricai sopra di lei. Le alzai le vesti e mi lasciò fare. Stava ferma con gli occhietti chiusi mentre la baciavo tutta. Solo alla fine, quando dissi: «Assunta, Assunta», lei aperse gli occhi e mi guardò senza parlare. Dopo che si alzò, rimise la gonnelluccia. Stava in piedi tutta sola sull'erba e s'aggiustò tante volte la veste coi palmi delle mani. Io ero ancora seduto sull'erba e la guardavo. Si ravviò i capelli, si raddrizzò il corpetto. Alla fine, divenuta immobile, volse gli occhi a me e per la prima volta da quando l'avevo stretta fra le braccia sorrise, sicché io avrei voluto che tutti i pini del bosco si inchinassero a farle riverenza e il sole la riempisse di luce e non venisse mai notte.